Ad alta voce. Fabrizio Gifuni legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Giunto al borgo, Renzo domandò dell'abitazione del dottore. Gli fu indicata e v'andò. All'entrare si sentì preso da quella suggezione che i poverelli illetterati provano in vicinanza ad un signore ed un dotto e dimenticò tutti i discorsi che aveva preparati, ma diede un'occhiata ai capponi e si rincorò. Entrato in cucina, domandò alla serva se si poteva parlare al signor dottore. Adocchiò essa le bestie e, come avvezza a somiglianti doni, mise loro le mani addosso, quantunque Renzo andasse tirando indietro, perché voleva che il dottore vedesse e sapesse che egli portava qualche cosa. Capitò appunto mentre la donna diceva «Date qui e andate innanzi». Renzo fece un grande inchino. Il dottore l'accolse umanamente con un «Venite, figliuolo!» e lo fece entrar con sé nello studio. Era questo uno stanzone su tre pareti del quale erano distribuiti i ritratti dei 12 Cesari. La quarta, coperta da un grande scaffale di libri vecchi e polverosi. Nel mezzo, una tavola gremita da allegazioni, di suppliche, di libelli, di gride, con tre o quattro seggiole all'intorno e da una parte un seggiolone a braccioli con una spalliera alta e quadrata, terminata agli angoli da due ornamenti di legno che s'alzavano a foggia di corna, coperta di vacchetta, con grosse borchie, alcune delle quali, cadute da gran tempo, lasciavano in libertà gli angoli della copertura che s'accartocciava qua e là. Il dottore era in veste da camera, cioè coperto d'una toga ormai consunta che gli aveva servito molt'anni addietro per perorare nei giorni d'apparato quando andava a Milano per qualche causa di importanza. Chiuse l'uscio e fece animo al giovine con queste parole. «Figliuolo, ditemi il vostro caso». «Vorrei dirle una parola in confidenza». «Son qui», rispose il dottore. «Parlate». E s'accomodò sul seggiolone. Renzo, ritto davanti alla tavola, con una mano nel cocuzzolo del cappello che faceva girar con l'altra, ricominciò. «Vorrei sapere da lei che ha studiato». «Ditemi il fatto come sta», interruppe il dottore. «Lei m'ha da scusare, noi altri poveri non sappiamo parlar bene. Vorrei dunque sapere». «Benedetta gente, siete tutti così. Invece di raccontare il fatto volete interrogare, perché avete già i vostri disegni in testa». «Mi scusi, signor dottore, io vorrei sapere se a minacciare un curato perché non faccia un matrimonio c'è penale». «No, ho capito», disse tra sé il dottore, che in verità non aveva capito. «No, ho capito». E subito si fece serio, ma d'una serietà mista di compassione e di premura. Strinse fortemente le labbra, facendone uscire un suono inarticolato che accennava un sentimento, espresso poi più chiaramente nelle sue prime parole. «Caso serio, figliuolo. Caso contemplato. Avete fatto bene a venire da me. È un caso chiaro, contemplato in 100 gride e, appunto, in una dell'anno scorso, dell'attuale signor governatore. Ora vi fo vedere e toccar con mano». Così dicendo, s'alzò dal suo seggiolone e cacciò le mani in quel caos di carte, rimescolandole dal sotto in su come se mettesse grano in uno staio. «Ma dov'è ora? Vien fuori, vien fuori. Bisogna aver tante cose alle mani, ma la deve essere qui sicuro perché è una grida d'importanza. Ecco, ecco. La prese, la spiegò, guardò alla data e, fatto un viso ancor più serio, esclamò: il 15 d'ottobre 1627. Sicuro. È dell'anno passato, grida fresca. Sono quelle che fanno più paura. Sapete leggere, figliuolo? Un pochino, signor dottore. Bene, venitemi dietro con l'occhio e vedrete. E tenendo la grida sciorinata in aria, cominciò a leggere, borbottando a precipizio in alcuni passi e fermandosi distintamente con grande espressione sopra alcuni altri, secondo il bisogno. Mentre il dottore leggeva, Renzo gli andava dietro lentamente con l'occhio, cercando di cavare il costrutto chiaro e di mirar proprio quelle sacrosante parole che gli parevano dover essere il suo aiuto. Il dottore, vedendo il nuovo cliente più attento che atterrito, si maravigliava. «Che sia matricolato costui?» pensava tra sé. «Ah ah!» gli disse poi. «Vi siete però fatto tagliare il ciuffo! Avete avuto prudenza! Però, volendo mettervi nelle mie mani, non faceva bisogno, eh? Il caso è serio, ma voi non sapete quel che mi basti l'animo di fare in un'occasione». Per intender quest'uscita del dottore, bisogna sapere o rammentarsi che a quel tempo i bravi di mestiere e i facinorosi d'ogni genere usavan portare un lungo ciuffo che si tiravan poi sul volto, come una visiera, all'atto d'affrontar qualcheduno, nei casi in cui stimasser necessario di travisarsi e l'impresa fosse di quelle che richiedevano nello stesso tempo forza e prudenza. Le gride non erano state in silenzio su questa moda. «Comanda Sua Eccellenza, il Marchese della Ignossa, che chi porterà i capelli di tal lunghezza che coprano il fronte fino agli cigli esclusivamente, ovvero porterà la trezza o avanti o dopo le orecchie, incorra la pena di 300 scudi et, in caso di inabilità, di 3 anni di galera per la prima volta e per la seconda, oltre la suddetta, maggiore ancora, pecuniaria et corporale, all'arbitrio di Sua Eccellenza. Permette, però, che per l'occasione di trovarsi alcuno calvo o per altra ragionevole causa di segnale offerita, possano quelli tali, per maggior decoro e sanità loro, portare i capelli tanto lunghi quanto sia bisogno per coprire simili mancamenti e niente di più, avvertendo bene a non eccedere il dovere e pura necessità per non incorrere nella pena agli altri contraffacenti imposta. E parimenti comanda a barbieri, sotto pena di 100 scudi o di 3 tratti di corda da esser dati loro in pubblico et maggiore anco corporale all'arbitrio come sopra, che non lascino a quelli che toseranno sorte alcuna di dette trezze, zuffi, rizzi, né capelli più lunghi dell'ordinario, così nella fronte come dalle bande e dopo le orecchie, ma che siano tutti uguali, come sopra, salvo nel caso dei calvi o altri difettosi, come si è detto». Il ciuffo era dunque quasi una parte dell'armatura e un distintivo dei bravacci e degli scapestrati, i quali poi da ciò vennero comunemente chiamati ciuffi. Questo termine è rimasto e vive, tuttavia, con significazione più mitigata nel dialetto, e non ci sarà forse nessuno dei nostri lettori milanesi che non si rammenti d'aver sentito nella sua fanciullezza o i parenti o il maestro o qualche amico di casa o qualche persona di servizio dir di lui: è un ciuffo, è un ciuffetto. «In verità, da povero figliuolo», rispose Renzo, «io non ho mai portato ciuffo in vita mia». «Non faccia niente», rispose il dottore scotendo il capo con un sorriso tra malizioso e impaziente. «Se non avete fede in me, non faccia niente. Chi dice le bugie al dottore, vedete figliuolo, è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All'avvocato bisogna raccontare le cose chiare, A noi tocca poi a imbrogliarle. Se volete che io v'aiuti, bisogna dirmi tutto, dalla A fino alla Z, col cuore in mano, come al confessore. Dovete nominarmi la persona da cui avete avuto il mandato. Sarà naturalmente persona di riguardo e in questo caso io anderò da lui e farò un atto di dovere. Non gli dirò, vedete, che io sappia da voi che v'ha mandato lui, fidatevi. Gli dirò che vengo ad implorare la sua protezione per un povero giovine calunniato e con lui prenderò i concerti opportuni per finir l'affare lodevolmente. Capite bene che salvando sé salverà anche voi. Se poi la scappata fosse tutta vostra, via, non mi ritiro, ho cavato altri da peggio imbrogli. Purché non abbiate offeso persona di riguardo, intendiamoci, mi impegno a togliervi d'impiccio, con un po' di spesa, intendiamoci. Dovete dirmi chi sia l'offeso, come si dice, e secondo la condizione, la qualità e l'umore dell'amico, si vedrà se convenga più di tenerlo a segno con le protezioni o trovare qualche modo d'attaccarlo noi in criminale e mettergli una pulce nell'orecchio. Perché, vedete, a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo e nessuno è innocente. In quanto al curato, se è persona di giudizio, se ne starà zitto. Se fosse una testolina, c'è rimedio anche per quelle. D'ogni intrigo si può uscire, ma ci vuole un uomo. E il vostro caso è serio, eh? Serio, vi dico, serio. La grida canta chiaro. Se la cosa si deve decidere tra la giustizia e voi, così a quattro occhi state fresco. Io poi vi parlo da amico. Le scappate bisogna pagarle. Se volete passarvela liscia, danari e sincerità. Fidarvi di chi vi vuol bene, ubbidire, far tutto quello che vi sarà suggerito. Mentre il dottore mandava fuori tutte queste parole, Renzo lo stava guardando con un'attenzione estatica, come un materialone sta sulla piazza guardando al giocatore di bussolotti che, dopo essersi cacciata in bocca stoppa e stoppa e stoppa, ne cava nastro e nastro e nastro che non finisce mai. Quando ebbe però capito bene cosa il dottore volesse dire e quale equivoco avesse preso, gli troncò il nastro in bocca, dicendo: «Oh, signor dottore, come l'ha intesa? L'è proprio tutta al rovescio. Io non ho minacciato nessuno. Io non fo di queste cose, io. E domandi pure a tutto il mio costume che sentirà che non ho mai avuto a che fare con la giustizia. La bricconeria l'hanno fatta a me. E vengo da lei per sapere come ho da fare per ottenere giustizia. E son ben contento d'aver visto quella grida.» «Diavolo!» esclamò il dottore spalancando gli occhi. «E che pasticci mi fate? Tante, siete tutti così. Possibile che non sappiate dirle chiare le cose? Ma mi scusi, lei non m'ha dato tempo, ora le racconterò la cosa com'è. Sappia dunque che io dovevo sposare oggi...» E qui la voce di Renzo si commosse. «Dovevo sposare oggi una giovine alla quale discorrevo fin da quest'estate. E oggi, come le dico, era il giorno stabilito col signor curato e s'era disposto ogni cosa. Ecco che il signor curato comincia a cavar fuori certe scuse. Basta, per non tediarla, io l'ho fatto parlare chiaro come era giusto. E lui m'ha confessato che gli era stato proibito, pena la vita, di far questo matrimonio. Quel prepotente di Don Rodrigo.» Via! Interruppe subito il dottore, aggrottando le ciglia, aggrinzando il naso rosso e storcendo la bocca. Via! Che mi venite a rompere il capo con queste fandonie. Fate di questi discorsi tra voi altri che non sapete misurare le parole e non venite a farli con un galantuomo che sa quanto valgono. Andate! Andate! Non sapete quel che vi dite. Io non mi impiccio con ragazzi. Non voglio sentir discorsi di questa sorte, discorsi in aria. Le giuro, andate. Vi dico, che volete che io faccia dei vostri giuramenti? Io non c'entro, me ne lavo le mani. E se le andava stropicciando come se le lavasse davvero. Parate a parlare. Non si viene a sorprendere così un galantuomo. Ma senta, ripeteva indarno Renzo. Il dottore, sempre gridando, lo spingeva con le mani verso l'uscio e quando ve l'ebbe cacciato, aprì, chiamò la serva e le disse: «Restituite subito a quest'uomo quello che ha portato, io non voglio niente!» Quella donna non aveva mai, in tutto il tempo che era stata in quella casa, eseguito un ordine simile. Ma era stato proferito con una tale risoluzione che non esitò a ubbidire. Prese le quattro povere bestie e le diede a Renzo con un'occhiata di compassione sprezzante che pareva volesse dire: «Bisogna che tu l'abbia fatta bella». Le donne, nella sua assenza, dopo essersi tristamente levate il vestito delle feste e messo quello del giorno di lavoro, si misero a consultar di nuovo, Lucia singhiozzando e Agnese sospirando. Quando questa ebbe ben parlato dei grandi effetti che si dovevano sperare dai consigli del dottore, Lucia disse che bisognava veder d'aiutarsi in tutte le maniere, che il padre Cristoforo era un uomo non solo da consigliare, ma da metter l'opera sua quando si trattasse di sollevar poverelli, e che sarebbe una gran bella cosa potergli far sapere ciò che era accaduto. «Sicuro», disse Agnese, e si diedero a cercare insieme la maniera, giacché andare esse al convento, distante di là forse 2 miglia, non se ne sentivano il coraggio in quel giorno. E certo nessun uomo di giudizio gliene avrebbe dato il parere. Ma nel mentre che bilanciavano i partiti, si sentì un picchiettio all'uscio e nello stesso momento un sommesso ma distinto «Deo gratias». Lucia, immaginandosi chi poteva essere, corse ad aprire e subito, fatto un piccolo inchino familiare, venne avanti un laico cercatore cappuccino, con la sua bisaccia pendente alla spalla sinistra e tenendone l'imboccatura attortigliata e stretta nelle 2 mani sul petto. «Oh, Fra Galdino», dissero le 2 donne. «Il Signore sia con voi», disse il frate. «Vengo alla cerca delle noci». «Va a prendere le noci per i padri», disse Agnese. Lucia s'alzò e s'avviò all'altra stanza, ma prima d'entrarvi si trattenne dietro le spalle di Fra Galdino, che rimaneva diritto nella medesima positura, e, mettendo il dito alla bocca, diede alla madre un'occhiata che chiedeva il segreto, con tenerezza, con supplicazione e anche con una certa autorità. Il cercatore, sbirciando Agnese così da lontano, disse: «E questo matrimonio si doveva pur fare oggi? Ho veduto nel paese una certa confusione, come se ci fosse una novità. Cos'è stato?» «Il signor curato è ammalato e bisogna differire», rispose in fretta la donna. Se Lucia non faceva quel segno, la risposta sarebbe probabilmente stata diversa. «E come va la cerca?» soggiunse poi per mutar discorso. «Poco bene, buona donna, poco bene. Le son tutte qui». E così dicendo si levò la bisaccia d'addosso e la fece saltar tra le 2 mani. «Son tutte qui. E per mettere insieme questa bella abbondanza ho dovuto picchiare a 10 porte. Ma le annate vanno scarse, Fra Galdino. E quando sa misurare il pane non si può allargar la mano nel resto. E per far tornare il buon tempo, che rimedio c'è, la mia donna? L'elemosina. Sapete di quel miracolo delle noci che avvenne molti anni sono in quel nostro convento di Romagna? No, in verità. Raccontatemelo un poco. Dovete dunque sapere che in quel convento c'era un nostro padre, il quale era un santo, e si chiamava il padre Macario. Un giorno d'inverno, passando per una viottola in un campo d'un nostro benefattore, uomo da bene anche lui, il padre Macario vide questo benefattore vicino a un suo gran noce e quattro contadini con le zappe in aria che principiavano a scalzar la pianta per metterle le radici al sole. «Che fate voi a quella povera pianta?» domandò il padre Macario. Padre, son anni e anni che la non mi vuol far noci e io ne faccio legna.» «Lasciatela stare», disse il padre, «sappiate che quest'anno la farà più noci che foglie.» Il benefattore, che sapeva chi era colui che aveva detta quella parola, ordinò subito ai lavoratori che gettasser di nuovo la terra sulle radici e, chiamato il padre, che continuava la sua strada, «Padre Macario», gli disse, «la metà della raccolta sarà per il convento.» Si sparse la voce della predizione e tutti correvano a guardare il noce. Infatti, a primavera, fiori a bizzeffe e, a suo tempo, noci a bizzeffe. Il buon benefattore non ebbe la consolazione di bacchiarle, perché andò, prima della raccolta, a ricevere il premio della sua carità. Ma il miracolo fu tanto più grande, come sentirete. Quel brav'uomo aveva lasciato un figliuolo di stampa ben diversa. Or dunque, alla raccolta, il cercatore andò per riscuotere la metà che era dovuta al convento, ma colui se ne fece nuovo affatto ed ebbe la temerità di rispondere che non aveva mai sentito dire che i cappuccini sapessero far noci. Sapete ora cosa avvenne? Un giorno, sentite questa, lo scapestrato aveva invitato alcuni suoi amici dello stesso pelo e, gozzovigliando, raccontava la storia del noce e rideva de frati. Quei giovinastri ebber voglia d'andare a vedere quello sterminato mucchio di noci e lui li mena su in granaio. Ma sentite, apre l'uscio, va verso il cantuccio dove era stato riposto il gran mucchio e, mentre dice «guardate», guarda egli stesso e vede che cosa? Un bel mucchio di foglie secche di noce. Fu un esempio questo. E il convento, invece di scapitare, ci guadagnò, perché dopo un così gran fatto la cerca delle noci rendeva tanto, tanto che un benefattore, mosso a compassione del povero cercatore, fece al convento la carità d'un asino che aiutasse a portare le noci a casa. E si faceva tanto olio che ogni povero veniva a prenderne secondo il suo bisogno, perché noi siamo come il mare, che riceve acqua da tutte le parti e la torna a distribuire a tutti i fiumi. Qui ricomparve Lucia, col grembiule così carico di noci che lo reggeva a fatica, tenendone le due cocche in alto con le braccia tese e allungate. Mentre Fra Galdino, levatasi di nuovo la bisaccia, la metteva giù e ne scioglieva la bocca per introdurvi l'abbondante elemosina, la madre fece un volto attonito e severo a Lucia per la sua prodigalità, ma Lucia le diede un'occhiata che voleva dire «mi giustificherò». Fra Galdino proruppe in elogi, in auguri, in promesse, in ringraziamenti e, rimessa la bisaccia al posto, s'avviava. Ma Lucia, richiamatolo, disse: «Vorrei un servizio da voi. Vorrei che diceste al padre Cristoforo che ho gran premura di parlargli e che mi faccia la carità di venire da noi poverette subito subito, perché non possiamo andar noi alla chiesa. Non volete altro? Non passerà un'ora che il padre Cristoforo saprà il vostro desiderio. Mi fido, non dubitatene.» E così detto, se ne andò, un po' più curvo e più contento di quel che fosse venuto. Al vedere che una povera ragazza mandava a chiamare con tanta confidenza il padre Cristoforo e che il cercatore accettava la commissione, senza meraviglia e senza difficoltà, nessun si pensi che quel Cristoforo fosse un frate di dozzina, una cosa da strapazzo. Era, anzi, un uomo di molta autorità presso i suoi e in tutto il contorno. Ma tale era la condizione dei cappuccini che nulla pareva per loro troppo basso né troppo elevato. La parola frate veniva in quei tempi proferita col più grande rispetto e col più amaro disprezzo. E i cappuccini, forse più d'ogni altro ordine, erano oggetto dei due opposti sentimenti e provavano le due opposte fortune. Perché non possedendo nulla, portando un abito più stranamente diverso dal comune, facendo più aperta professione di umiltà, si esponevan più da vicino alla venerazione e al vilipendio che queste cose possono attirare da diversi umori e dal diverso pensare degli uomini. Partito fra Galdino. «Tutte quelle noci!» esclamò Agnese. «In quest'anno! Mamma, perdonatemi!» rispose Lucia, ma se avessimo fatta un'elemosina come gli altri, fra Galdino avrebbe dovuto girare ancora, Dio sa quanto, prima d'aver la bisaccia piena, Dio sa quando sarebbe tornata al convento e con le ciarle che avrebbe fatte e sentite, Dio sa se gli sarebbe rimasto in mente. Hai pensato bene. E poi è tutta carità che porta sempre buon frutto, disse Agnese, la quale... coi suoi difettucci era una gran buona donna e si sarebbe, come si dice, buttata nel fuoco per quell'unica figlia in cui aveva riposta tutta la sua compiacenza. In questa arrivò Renzo ed entrando con un volto dispettoso insieme e mortificato gettò i capponi su una tavola e fu questa l'ultima trista vicenda delle povere bestie per quel giorno. «Bel parere m'avete dato», disse ad Agnese. «M'avete mandato da un buon galantuomo, da uno che aiuta veramente i poverelli». E raccontò il suo abboccamento col dottore. La donna, stupefatta di così trista riuscita, voleva mettersi a dimostrare che il parere però era buono e che Renzo non doveva aver saputo far la cosa come andava fatta. Ma Lucia interruppe quella questione, annunziando che sperava d'aver trovato un aiuto migliore. Renzo accolse anche questa speranza, come accade a quelli che sono nell'avventura e nell'impiccio. «Ma se il padre disse, non ci trova un ripiego, lo troverò io, in un modo o nell'altro». Le donne consigliarono la pace, la pazienza, la prudenza. «Domani», disse Lucia, «il padre Cristoforo verrà sicuramente e vedrete che troverà qualche rimedio di quelli che noi poveretti non sappiamo nemmeno immaginare». «Lo spero», disse Renzo, «ma in ogni caso saprò farmi ragione o farmela fare. A questo mondo c'è giustizia, finalmente». Co dolorosi discorsi e con le andate e venute che si son riferite, quel giorno era passato e cominciava a imbrunire. «Buonanotte», disse tristamente Lucia a Renzo, il quale non sapeva risolversi d'andarsene. «Buonanotte», rispose Renzo ancor più tristamente. «Qualche santo ci aiuterà», replicò Lucia. «Usate prudenza e rassegnatevi». La madre aggiunse altri consigli dello stesso genere e lo sposo se ne andò, col cuore in tempesta, ripetendo sempre quelle strane parole. «A questo mondo c'è giustizia, finalmente!» Tant'è vero che un uomo sopraffatto dal dolore non sa più quel che si dica. Thank you.